Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Come spesso abbiamo avuto modo di sottolineare, qui a Smart City la popolazione sta rapidamente invecchiando e con essa si moltiplicano le patologie croniche e varie forme di disabilità fisica e cognitiva. Insomma, la disabilità è e sarà sempre meno un fenomeno di nicchia. E per questo il tema di come rendere beni e servizi disponibili a tutti e di come progettare città fruibili a tutti è e sarà sempre più rilevante. Da questo punto di vista non c'è dubbio che la tecnologia consenta oggi di restituire spazi di autonomia a persone disabili che fino a pochi anni fa erano impensabili. Si progettano, ne abbiamo anche parlato, ausili di ogni tipo, interfacce cerebrali, cellulari che per i non vedenti traducono in parole il paesaggio che vedono attraverso la videocamera. Abbiamo esoscheletri che si stanno progettando comandati col pensiero. Eppure io ho in mente quell'immagine di mia nonna che ormai molto anziana si trova in grave difficoltà quando si trova a dover compiere un gesto molto semplice: alzarsi dal sedile dell'automobile. Allora diamo il benvenuto al nostro ospite, l'ingegnere Alberto Sanna. Buonasera. Buonasera. Direttore presso l'ospedale San Raffaele di Milano del e-Service for Life and Health, una unità che è specializzata nella messa a punto di dispositivi, servizi, processi personalizzati nell'ambito della salute. Allora Sanna, tanta tecnologia, dicevamo, e poi alcuni gesti anche tra i più semplici restano un problema. Sì, certo, in realtà c'è un po' tutto il problema della qualità della vita a tutte le età e a tutte le condizioni, e ovviamente la macchina è un grande strumento di autonomia e di socialità, e quindi noi dobbiamo pensare anche a ripensare lo strumento macchina più su misura per la persona e meno su misura per la tecnologia e la strada. Certo, insomma, la pubblicità automobilistica difficilmente farà leva sulla disabilità come concetto, purtroppo. Però abbiamo queste auto che sono infarcite di tecnologia e poi magari mancano in queste funzioni. Ma veniamo appunto alla ragione per cui l'ho chiamata. C'è un progetto europeo in cui il laboratorio che lei dirige è impegnato. Questo progetto si chiama Silver Stream, è appena partito pochi giorni fa, e diciamo così che risponde proprio al problema di mia nonna. Ce lo spiega, ci spiega di cosa si tratta? Sì, il progetto Silver Stream ha come obiettivo la creazione di un veicolo elettrico leggero e molto manovrabile che metterà grandissima attenzione alla cura dell'ergonomia, cioè del modo in cui la persona entra, si siede e vive l'esperienza della macchina e ne esce. Quindi una poltrona che aiuta la persona a sedersi, aiuta la persona a guidare. Quindi una poltrona che si alza, no? Che si solleva, per cui uno è facilitato quando deve sedersi, poi ridiscende, e quando è il momento di scendere dalla macchina si risolleva e aiuta la persona, no? A smontare. Ecco, accompagna lo spostamento, tutti i movimenti legati al sedersi e ad alzarsi dalla macchina, muovendosi in maniera personalizzata. E altrettanto fa, diciamo così, per aiutare la persona con le altre incombenze della vita quotidiana, come caricare e scaricare i pacchi. Vuol dire che alla fine useremo tutti questi fantastici motori elettrici non solo per portare avanti e indietro una macchina in maniera silenziosa, ma anche per aiutare la persona a vivere il benessere all'interno del proprio veicolo. Eh sì, insomma, il motore elettrico nei veicoli elettrici già c'è, tanto vale usarlo anche non solo per muovere la macchina, ma magari anche per alzare e abbassare un sedile. Chi è impegnato in questo progetto, oltre a voi? Il progetto Silver Stream è un progetto europeo in Horizon 2020, sì, e ha una decina di partner, aziende piccole e grandi di tutta Europa, con capofila Infineon Technologies in Germania. E anche qualche centro di ricerca, se ben ricordo. E qualche centro di ricerca sparsi in Europa e piccole e medie aziende italiane ed europee. Qual è l'obiettivo finale del progetto, allora? L'obiettivo finale del progetto è la creazione di un prototipo funzionante testato nella Smart City del San Raffaele che possa dimostrare questo paradigma nuovo dell'auto per il benessere della persona, e sostanzialmente vogliamo dimostrare l'importanza di investire nella ricerca non solo sul prodotto automobile, ma proprio sul prodotto qualità della interazione tra l'uomo e la macchina all'interno della vita reale. Lei parlava di una nuova classe, no? Noi siamo abituati a pensare, diciamo, che la nostra aspirazione è inventare una nuova classe, non la A, la B e la C in funzione della lunghezza o la potenza del veicolo, ma a noi interessa la classe W, che in inglese sta per well-being, che è la misura del benessere, dell'accoglienza e dell'assistenza che la macchina dà a tutte le persone che stanno dentro, perché ci siamo focalizzati su chi guida, ma ricordiamoci che la macchina è uno strumento di straordinario, di socialità, di autonomia, di scoperta, di motivazione alla gioia della vita, e quindi deve anche servire anche alle altre persone che fruiranno della macchina. E allora Sanna, ci risentiamo tra 3 anni e vediamo che cosa avete combinato. Assolutamente. Va bene, ci fermiamo. Se diventi vecchio abbastanza te la faccio anche provare. Grazie. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.